dedicato alla pubblicazione di una sorta di pamphlet, lo potremmo definire così, insomma, anche se poi anche molto ricco di dati, cifre, numeri. Un pamphlet che è stato realizzato, curato dai COBAS INPDAP, dal titolo Depressione economica e lotta per il reddito, proposte per ridistribuire la ricchezza e recuperare alla collettività 104 miliardi di euro. Chiaramente ne parliamo con uno dei compagni, insomma, che ha lavorato per ha operato concretamente per raccogliere i dati, le cifre, le informazioni, insomma, attraverso le quali si lancia questa proposta e a partire dai quali è basato poi tutto il ragionamento che c'è dietro, e cioè Ettore, buongiorno. E allora, insomma, innanzitutto diciamo perché presentiamo questo volumetto. Lo facciamo chiaramente per diversi ordini di motivi. Viviamo, insomma, in una società, la nostra, che è sempre meno dà spazio a garanzie sociali ed economiche, ai cosiddetti diritti, ma anzi questi vengono sempre più erosi, sia vengono erosi i diritti di chi un tempo quantomeno, insomma, ce li ha avuti, dato che viviamo una fase storica in cui, insomma, gli stessi cosiddetti garantiti sono aggrediti e i loro rapporti di lavoro si trasformano nella maggior parte dei casi in rapporti flessibili e precari, sia per l'appunto, diciamo, si vanno a erodere le prospettive di chi invece in tutti questi anni, nell'ultimo quindicennio, in realtà di diritti ne ha avuti ben pochi e comincia a essere seriamente frustrato o frustrata rispetto alle proprie prospettive complessive, rispetto al proprio futuro. Perché? Perché, insomma, viviamo anche in un'epoca minacciata dai cosiddetti venti di crisi che però chiaramente riguardano quasi esclusivamente i ceti sociali inferiori, i ceti sociali deboli, coloro i quali, insomma, questa crisi la sopportano e in una certa misura anche la pagano, al di là dei facili slogan, insomma, che vengono gridati poi anche nei cortei, no? Questa situazione di crisi però, insomma, non è che la vivono tutti, per l'appunto, ma anzi, al contrario, in realtà probabilmente in questi anni alcune fasce si sono addirittura irrobustite dal punto di vista invece dell'agio, della ricchezza, dal punto di vista degli introiti. Ora, questo è un discorso, insomma, tra l'altro molto battuto, soprattutto dal punto di vista, diciamo, della critica ai costi della politica. Lo si fa quasi giornalmente anche in televisione, senza che ciò tra l'altro susciti chissà quale reale scossone, insomma, non tanto in termini proprio politico-istituzionali, ma anche rispetto a qualche riformuccia, insomma, che la classe politica, per quanto ne parli, in realtà poi neanche fa, dal punto di vista del taglio dei costi della politica stessa. Discorsi che nella maggior parte dei casi però poi vengono anche usati in modo così anche opportunistico, propagandistico, in un certo senso con una vena demagogica, insomma, che li presuppone. Discorsi che sfociano in una sorta di qualunquismo becero, poi molto spesso. Ecco, invece, il merito di questa proposta è quello di affrontare questo discorso, che è molto chiaramente più ampio di quello che è passato sotto il nome di casta, anche in alcuni fortunati, insomma, così titoli editoriali. Un discorso che in questo caso invece è condito non solo dall'analisi, non solo dai numeri, ma anche appunto dalla proposta nel senso che tutto è finalizzato a una lettura di carattere sociale di quella che è la fase di crisi acuta che si vive in relazione però a questa condizione di privilegio che vivono invece in pochi, e il tutto è finalizzato appunto anche a proposte che sono appunto definite di riequilibrio. Ora, innanzitutto specifichiamo una cosa, perché la dobbiamo dire: non è che si tratta di una proposta di carattere rivoluzionario, bisogna essere onesti da questo punto di vista. Riformista. Sì, da un certo punto di vista, insomma, si tratta di una proposta che potrebbe essere definita, come si faceva un tempo, di riforma correttiva, di riforma di struttura, potremmo dire, insomma, no? È chiaro che la prendiamo in considerazione per diversi ordini di motivi, perché chiaramente attraverso di essa possiamo parlare direttamente, insomma, alle persone, a chi ci ascolta, facendo due conti, insomma, rispetto a come è gestita la cosa pubblica, e cercando anche di far capire non solo a quali condizioni siamo sottoposti noi, ma anche invece di converso quale condizione di assoluto privilegio vivono coloro i quali poi decidono sulla nostra sorte. Perché poi in realtà qui si parla molto dei manager, dei top manager, ma poi si parla anche dei personaggi politici, che sono coloro i quali poi si affannano alla ricerca di questo o quello stratagemma per renderci la vita sempre più difficile, ad esempio proprio a partire dai trattamenti pensionistici, perché insomma negli ultimi 20 anni di riforme delle pensioni ne sono susseguite tantissime, tutte insomma a danno della classe lavoratrice. Costoro invece approfittano del fatto di essere anche all'interno della stanza dei bottoni per cumulare, insomma, pensioni d'oro. Allora, Ettore, da dove vogliamo partire? Perché i punti sono diversi. Allora, intanto precisiamo: il documento analizza alcune categorie che sono generali, che poi queste categorie confinano anche con la politica. No, perché purtroppo oggi che sia l'imprenditore poi alla fine finisce di fare anche magari il ministro, no? Come vediamo, no? Aspetto il microfono. Se non me l'accende la regia, io stavolta non so io al mixer, perciò allora ricomincio, dato che era spento il microfono. Insomma, questa analizza alcune categorie, che queste categorie poi confinano con la politica, è solo un fatto accidentale. Il fatto principale è che queste categorie, che sembrano poche, coinvolgono circa 2 milioni di persone, che vivono proprio totalmente al di fuori da tutti i provvedimenti restrittivi, i tagli e i recuperi, no? Che vengono fatti per sanare il debito pubblico, ma loro lo incentivano. C'è Tremonti che si presenta in televisione e dice che la crisi tutta quanta è stata provocata dalla speculazione, come se la speculazione fosse un evento meteorologico. È arrivata una grandinata, il raccolto è andato male perché è venuta la grandinata, e lui la descrive in questo modo: è la speculazione. Ma chi sono che fanno la speculazione? Sono poi gli stessi personaggi che ho cercato di analizzare dentro sto documento. Un lavoro che questo è cominciato perché stavo lavorando per un servizio di report, no, sulla previdenza. Poi non hanno retto, non gli ha retto il polmone stavolta la Gabbanelli, perché andava a incidere direttamente delle cose serie e l'ha trattato superficiale. Io allora, a questo punto, per non buttare il lavoro, l'ho raccolto nel pamphlet, ed è un pamphlet che non intende in nessun modo buttarla in caciarra, come si dice, giocare sull'effetto scandalistico che ce ne sarebbe veramente agghiosa. Ma abbiamo visto che una categoria, una serie di categorie, tanto per capire, citarli: i dirigenti della pubblica amministrazione, abbiamo analizzato come sono distribuiti, abbiamo visto che un dirigente di primo livello, cioè uno che inizia la carriera da dirigente, prende 7 volte più dell'impiegato medio. Mi sembra una forbice esagerata. Se poi andiamo ai dirigenti generali, che arriva a 13 volte, e ai dirigenti direttori generali, quelli, no? i più alti ancora in grado, arriva anche a 30 volte lo stipendio medio dell'impiegato. E sono tutti questi, per esempio dei dirigenti pubblici, che non entrano nelle varie riforme che ci sono state previdenziali, rimangono tutti quanti fuori dalla riforma Dini famosa, cioè andranno sempre in pensione con l'ultimo stipendio. E dato che abbiano questi stipendi così altissimi, poi se ne vanno in pensione con delle pensioni veramente scandalose, esagitate. Molti di questi dirigenti non finiscono la carriera con la loro andata in pensione, ma continuano poi ad accumulare altri redditi facendo i consulenti, infilandosi in politica, entrando nei consigli di amministrazione e via dicendo, maturando ulteriori arricchimenti su questa cosa. Non so pochi, so tantissimi, il blocco sono definiti i dipendenti non contrattualizzati della pubblica amministrazione, ammontano a 600.000. Stiamo parlando solo dei dirigenti della pubblica amministrazione. Poi c'è tutta quella casta che sarebbe l'esercito, le forze armate, le forze di, diciamo, la polizia, carabinieri e via dicendo, in cui quasi tutti finiscono la carriera, specialmente la carriera ufficiale, no? Quelli che cominciano con il soldato di truppa, ma gli ufficiali finiscono di andare in pensione tutti, esclusivamente tutti, dal grado di generale, con delle pensioni che superano almeno 8-9 volte la pensione normale di un impiegato che ha lavorato 40 anni, perché se poi la calcoliamo alle pensioni medie in Italia, che sono intorno ai 700 euro, arrivano molto di più di 7-8 volte, ma arrivano a 20 volte. E ho visto questa, analizzando tutta questa situazione e poi proiettandola pure nel privato, calcolando le tabelle che pubblica l'INPS, abbiamo scoperto, no, ma non era una scoperta, abbiamo accertato che ci sono, per esempio, dei manager, delle gente, uno come Geronzi, prende una pensione, no? Non è che si fa il nome per lo scandalo, no, per fare l'esempio, per far capire, almeno da 15 anni una pensione come dirigente del privato, del settore privato, a carico dell'INPDAI, che per pareggiare il bilancio in rosso di questa cassa, il fondo pensionati dei lavoratori, INPS, versa ogni anno 2 miliardi per pareggiare i debiti. Però lì ci sono questi tipo come Geronzi che prende una pensione di 20.000 euro al mese. Ma di questi ce ne stanno tantissimi, ce n'è uno scandaloso, non mi ricordo come si chiama, ma arriva a 90.000 euro al mese. Cioè capite, sto parlando di mese, non sto parlando di anni, no? Perché un pensionato ci deve campare 20 anni per arrivare a 90.000 euro, no? Questi lo piano ogni mese, ogni 14 del mese vengono pagate pensione puntualmente, o alla banca, all'ufficio postale, trovano sta somma. Ma trovando tutti questi soldi, e tutti i soldi che hanno accumulato prima, fanno speculazioni, quelle che dice Tremonti, che non sono delle grandinate. Ma ovviamente Geronzi ha continuato a fare banchiere, presidente di qua, e accumula. Questo succede per tutti. Vogliamo vedere la categoria, quanti sono, no? I professori universitari. Non sono tutti allo stesso livello, ma la maggioranza dei professori universitari arriva alle carriere massime, direttori di dipartimento, di preside, oppure diventa rettore. Questi vanno in pensione tra i 10 e i 15 mila euro mensili di pensione. Poi certo ci sono quelli strutturati che rimangono al basso, ricercatori, così, che vanno in pensione, ma non da poveracci, vanno da 4.000 a 6.000 euro, 7.000 euro. Dentro sta categoria si annida, per esempio, molta politica, che hanno fatto la carriera universitaria senza entrare un giorno all'università. Non ci sono entrati manco per fare un'assemblea all'università per fare propaganda. Ti faccio l'esempio, anzi qualche volta qualcuno ci ha provato, fu cacciato. Un sindacalista come D'Antoni, no? Che se n'è andato in pensione all'età di 56 anni con una pensione di 8.000 euro al mese, con 40 anni di servizio come docente universitario. A parte 56 e 40 anni di servizio, questo ha cominciato a fare docente universitario a 16 anni, insomma, forse ancora manca al liceo, andava, non lo so. Però questo avviene, no? Nella normalità, senza far scandalo, senza nessuno domanda e si chiede spiegazioni, dopo aver fatto tutta la vita, e poi sta facendo il deputato che accumula, accumula, mucchia. E così, per esempio, davanti a tutta questa cosa ne abbiamo visti tanti. Allora, davanti a questi, ma proprio strutturatamente, è stato fatto un lavoro proprio preciso, dettagliato, e l'abbiamo volutamente, perché noi non siamo dei professionisti, dei tecnici, no? Non siamo né economisti e né... Abbiamo fatto due conti da pizzicarolo, proprio 2 più 2 fa 4 e via di in questo modo. Abbiamo volutamente tenuto sottostimato il valore, i valori che escono fuori, i dati, che se no diventerebbero delle cifre che delle volte... Se avrei dovuto dire le cifre reali che mi venivano fuori, c'avevo paura che diventava poco credibile il documento. Invece ci siamo tenuti fuori, ma con tutto ciò escono delle cifre esagerate che basterebbe, no? Dire è fatto divieto di cumulo, perché il cumulo è c'è già il divieto per alcune categorie. Per esempio, una reversibilità, una pensione reversibile non può essere cumulata sul reddito della superstite, no? E la stessa cosa vale per un invalido. Se uno prende una pensione di invalidità, la sua pensione non può essere cumulata con altri redditi, se ha la capacità, la fortuna, la cosa di avere altri redditi. E invece questi possono tranquillamente cumulare tutto quanto. Allora dico, ma estendiamo questa cosa a tutti e mettiamo il divieto di cumulo, cioè o ti pago una volta sola. Ci sono casi qui di persone che sono state pagate e hanno avuto pure le pensioni per due incarichi diversi, ma la giornata è di 8 ore, sempre una è la giornata, no? Però un incarico in un consiglio d'amministrazione, un incarico magari all'università, specialmente questo succede parecchio all'università, gli sono maturate due pensioni. Allora, se si fa questo ragionamento come divieto di cumulo e in più si metterebbe un tetto, che mi sembra normale, che una pensione non può andare oltre i 5.000 euro, no? Ci sarebbero dei risparmi esagerati, perché i numeri, no, io l'ho detto, sono abbastanza forti, numerosi. In più abbiamo detto, ma se questo funziona per le pensioni, per evitare che ci sono queste pensioni così alte, bisogna trovare anche con l'intervento fiscale, come si pare, poi chi lo legge, come la chiamate, il documento, diciamo, che io, e c'è la spiegazione anche sui stipendi, no? Non si capisce per quale motivo un dirigente deve prendere 7-8 volte più di un impiegato, basterebbe 3-4 volte, no? La stessa cosa nei manager, nei cose, perché per fare capire i numeri, tu immaginate quanti direttori di banca sono tutti pensionati dell'Impidai come dirigenti d'azienda in tutta Italia, quanti sono i direttori di banca? I primari, i professori università, i dottori, no? I giornalisti, per esempio, noi sembrano che sono quelli che poi ci fanno i librini, no? E magari scrivono contro la casta e loro fanno parte da casta e fanno cumulo pure loro, no? Con i diritti d'autore. E sono tanti, gli faccio l'esempio, uno per tutti. Noi ci avevamo quel porco, ma assumiamo la responsabilità, perché solo così si poteva, quello che fa prima porta, una porta a porta, come si chiama, Bruno Vespa, pensionato ippici, di quasi 15.000 euro al mese, più se piace i soldi alla RAI. Quell'altro porco vero, pedofilo, di... come si chiama quello, il compare di Berlusconi dal TG4 e Fede, pensionato pure lui RAI, IPG, si prende i soldi pure perché fa il direttore là. Insomma, di questi ne potremmo citare tantissimi, tantissimi, che vivono in questo e accumulano, accumulano. È chiaro che si accumulano tutti questi soldi, che ce fanno? O ce vanno ad escort o ce fanno a speculazione e rovinano le finanze dei Tremonti, perché l'incidente a grande è questa. Allora, ponendo tutta questa cosa al limite sui redditi, sui stipendi, un tetto, 3 volte, 4 volte, 5 volte, si gradualizza, e divieto di cumulo, sempre sottostimato, ci sarebbero 104 miliardi di risparmio l'anno. Non sarebbe nessuno povero, perché di questi non diventerebbe povero nessuno, ma ci sarebbero 104 miliardi di risparmio che potrebbero essere destinati alla precarietà, al reddito minimo garantito, alla scuola, alla ricerca, all'università, alla cultura, che poi sarebbero poi un veicolo, no? Anche per sviluppare l'economia. Perciò io sto parlando di una rivoluzione. Ma all'interno di questo sistema, che io lo voglio abbattere, però non è che questo è un sistema che mi piace, questo è un sistema che va abbattuto, però all'interno di questo sistema apriamo la contraddizione, e l'appello di questo documento è indirizzato soprattutto ai giovani, perché tanti lo scambiano, che si parla di pensioni, no? Dice, ma che cavolo ce ne frega la pensione, no? E non è, è rivolto ai giovani, ai precari, ai disoccupati, è rivolto a loro come proposta di piattaforma per rivendicare e partire con una battaglia di conflitti veri. Perché vedi, c'è stato questo movimento dei studenti che poneva il problema, va, ci avete fottuto il futuro, e scendevano in piazza perché rivolevano il futuro, però sapevano solo che a Gelmini, ma lasciatela perdere, diamosela col collettivo generale. Quando dicono non ci sono i soldi, eccolo, questo ci sarebbe la possibilità di battersi, perché i soldi ci sono. Basta imporre queste cose. E dato che non c'è un ceto politico, né di destra né di sinistra né della semastrinista, in Parlamento in grado di sostenere e far approvare qualcosa di questo genere, può avvenire solo con la sommossa, l'indignazione. Infatti il titolo è un'utopia che solo la ribellione può far diventare realtà. Perciò tutto il frappè nasce da questa cosa. Io devo dire, poi riprendere la questione, perché non ha avuto molto successo tra i compagni. Lo guardano, forse manco l'hanno letto, non distribuite molte copie, e anche pubblicato su internet, no, nel mio blog de Cobassa Impidap, non lo piano come presa, come una, non lo tengono in considerazione, lo sottovalutano. Eppure questo è un fatto, un lavoro serio che uno lo dovrebbe contestare, no? Sugli argomenti, se ci sono, altrimenti devi dire qua ragioniamoci. E l'ultima provocazione lo faccio, dato che siete tutti giovani, pure stamattina alla radio c'è un bel gruppo di pischelli studenti, ci stanno tutti sti ricercatori precari, qualcuno sarà pure ricercatore d'economia, lo prendessero in considerazione, ci facessero una ricerca sociale, sociologica su questa cosa, per capire, magari dare una spiegazione più professionale, più tecnica, più precisa, con tabelle più studiate, oppure di vabbè, ha detto una cazzata, insomma qualcuno mi smentisse. Vabbè, dal punto di vista insomma della spiegazione del perché accade questo fenomeno, mi sembra che sia abbastanza fatta insomma all'interno del documento stesso, per cui il ragionamento è abbastanza chiaro, e anche tu insomma l'hai sintetizzato piuttosto bene. Mi sembra che i problemi su cui così sei, ti sei soffermato di più, sono sostanzialmente tre, e cioè a partire da trattamenti di stipendio elevati, che costituiscono il primo problema su cui ti sei soffermato, per andare poi, quindi gli stipendi già tanto elevati, trattamenti pensionistici che diventano stellari, e poi insomma il cumulo delle cariche, quindi sono praticamente di conseguenza anche delle pensioni stesse, quindi sono tre ordini di problemi diversi. Ne aggiungerei anche un quarto, che è quello delle liquidazioni ai top manager. Insomma, quelle non l'ho trattate per niente, perché lì andiamo a cifre che non le sottoscrive. Sì, ecco, tu hai fatto l'esempio di Geronzi, in realtà poi nell'ultimo periodo neanche gli analisti economici e finanziari, neanche coloro i quali scrivono sui giornali di analisi economica, riescono realmente a fornirci una cifra attendibile delle liquidazioni incamerate da questi top manager, anche perché dalle informazioni spesso insomma queste cifre oscillano per diversi milioni di euro. De Geronzi si parla di 15-16 milioni di euro, ma insomma questa è una cosa che va avanti solo un anno di incarico, esatto, questa è una cosa che va avanti da tantissimi anni. Ci sono top manager che hanno incassato liquidazioni astronomiche dopo aver ridotto al lastrico e diciamo combinato disastri in aziende anche di carattere strategico, e facendo questo in più di un'azienda. Alcuni esempi di chi è saltato dalla gestione delle ferrovie all'Alitalia, distruggendo sia da una parte che la compagnia di bandiera. Anche quelli sono pensionati dell'Inpdai, e questo che voglio marcare. L'Inpdai è un ente che è stato sciolto e fuso dentro l'Inps. L'Inps, per poter pareggiare i conti di questo cassa, che è gestita autonomamente ma separata, deve versare ogni anno 2 miliardi di euro dai fondi lavoratori, no? Che poi dicono il fondo lavoratori è in rosso perché pareggi i conti di quest'altri, e poi fanno la riforma previdenziale, e a te caro Luciano la pensione non te la daranno più. Ecco, magari insomma adesso sei tu che ti devi incazzare con i forconi, perché io, l'orizzonte mio è corto, fra un anno io vado in pensione, poca, ma la pio, a te non ti tocca fra più. Allora, ci risentiamo tra pochi istanti. Riprendiamo la diretta, anche perché abbiamo una telefonata che mandiamo subito, visto che voleva intervenire nell'ambito del dibattito che si stava conducendo ai microfoni. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi e buongiorno a Ettore. Buongiorno, buongiorno, ciao Pino. Ciao Ettore, ciao. Dunque, io ho letto con attenzione, al contrario di qualcun altro, come dice Ettore, giustamente, se dice questo è perché lo sa. A me, io l'ho ricevuto gentilmente da lui e l'ho letto con attenzione, e devo dire che ne condivido ovviamente totalmente lo spirito, almeno nel senso dell'analisi peraltro approfondita, difficile oggi trovare questo tipo di scritti, quindi per fortuna c'è chi li fa, li porta avanti con testardaggine. L'ho letto e quello che mi sento di dire è questo, cioè i dibattiti sono belli se non siamo proprio d'accordo su tutto, no? Se no diventa un'omelia, insomma, a cui tutti quanti si devono accodare. Allora, io penso questo, che diciamo dopo la crisi, no? In molti parlano di ripresa, la ripresa contraddittoria, però per certi versi è vero, seppur spostata come cuore, diciamo, pulsante di questa ripresa a est, ma a est del mondo intendo. Ma comunque, diciamo che c'è una sorta di ripresa post-crisi che viene contraddistinta da un paio di filiere ideologiche che la coprono. Una di queste è la green economy, cioè l'economia verde, no? Lo sviluppo capitalistico truccato da ecologia, e l'altra è quella delle regole del mercato. Una di queste regole del mercato, internazionalmente portata avanti, insomma, dai mille cuori della ripresa capitalistica, è quella proprio della riduzione della forbice, cioè del tentativo di mettere una sorta di tetto alle più aspre contraddizioni di questo sistema, cioè di ridurre le asperità, le crudeltà di questo sistema. Questo è uno delle ideologie che copre diciamo la planetizzazione capitalista, cioè l'avvolgimento del pianeta da parte del sistema capitalistico, che resta con tutte le sue caratteristiche di fondo, innanzitutto nel modo di produzione, nella guerra, nello sfruttamento, nell'estrazione del plusvalore, che anzi si allarga, però cerca di truccarsi da capitalismo temperato, un po', ecco, per riportarla nella accezione prodiana, cioè del Prodi della situazione. E qui abbiamo vari tentativi nel tempo e nella storia, anche nel passato, tutta la dinamica relativa alla dumping tax, cioè la possibilità di tassare le rendite da capitale. C'abbiamo addirittura la camusso, quella che giustamente Ettore chiama camuffo, mi pare, camuffa, mi ricordo, che pure lei parla dei tetti, e c'abbiamo in ultimo il poveraccio lì, quello là, come si chiama? Mauro Giordano, giornalista per niente. Ma ha copiato paro paro, ha preso su internet i dati miei. Ecco, io non lo sapevo, ma lo sospettavo, adesso tu me lo confermi, ero convinto che era pure un copione, oltre che un servo del giornale, insomma, questo qua, no? Ha fatto il suo bravo libretto, lui c'ha diritto alla televisione, noi ci dobbiamo accontentare di una radio piccola, seppure importante, come Radio Onda Rossa. Comunque pure lui ha scritto il libretto in cui metteva in evidenza che ci sono i papponi, che sono gli imprenditori, che sono i politici, che sono i sindacalisti, io ci metto pure qualche prete, insomma, che accumulano stipendi e che accumulano ricchezze. Insomma, adesso dopo tutta questa introduzione, il problema di tassare i patrimoni, di porre il tetto a stipendi e pensioni, di distribuire il reddito, insomma, secondo una più giusta divisione, no? Tra le classi sociali, io credo che sia un problema vecchio, per certi vecchio nel senso che c'ha una storia dietro. Appunto, voi prima parlavate di programma non rivoluzionario che ha qualcosa a che vedere con le riforme di struttura, adesso le riforme di struttura le fanno i padroni, ma noi già lo dicevamo 40 anni fa che andava a finire così, no? È stato un po' il programma del vecchio Partito Comunista Italiano, del PC, e può essere tranquillamente appunto un programma di un buon liberale o addirittura della Chiesa Cattolica, no? Pure lei, l'Europa sociale, quindi ridurre appunto le crudeltà di cui parlavamo prima. La domanda mia, insomma, è questa qui: ma questi obiettivi qua, ammesso che non vengano delusi e che rimangano soltanto un desiderio per quanto scritto, ma sono realisti? Cioè, non è tanto se sono rivoluzionari o riformisti, ma se sono realisti o utopistici. Cioè, in questa condizione dei rapporti di forza tra le classi, è realistico porre un programma del genere, che a mio parere può essere effettuato soltanto con la demolizione dell'intera struttura sociale? E per quanto ammesso che sia realista e che sia realizzabile, ma una volta ottenuto il risparmio di cui parla Ettore, no? Giustissimo risparmio, riduzione delle spese militari, riduzione dei tetti, riduzione della forbice, tassazione dei patrimoni, eccetera, ma chi lo gestisce sto risparmio? Lo gestisce comunque sempre la struttura capitalistica fondante di questa società, fine del discorso. Ma Allora, sarà una questione dei tetti o sarà una questione dei fondamenta di questa società da indagare e da combattere, insomma, per arrivare a una soluzione del genere? Punto interrogativo. Vi ringrazio dello spazio. Ciao, grazie. Ciao, cari, ciao. Appena io dico questo, è chiaro, è scritto pure nel documento che noi non ci poniamo per il momento, ma vogliamo solamente dare stimolo, specialmente alle generazioni giovani, giovanissimi, di trovare una forma da aggregare la ribellione e dargli un obiettivo materiale, concreto. Che il mio obiettivo, essendo un comunista vetero, di quelli, capito, quelli che nel dispregiativo vengono definiti ML, io invece non mi offendo, un marxista leninista ortodosso, mi posso pure definire così, voglio abbattere il sistema. Ma però oggi, per poter dialogare anche col proletario che sta per strada, in piazza, al mercato, al bar, gli devo fare pure capire perché mi incazzo, e gli faccio capire in un modo proprio plastico perché se lui sta male è perché c'è sta qualcuno che sta 100 volte meglio di lui, e la sua ricchezza di quello è perché funziona solo se lui sta male. Cioè cercare di fare incazzare, poi ci vorrebbero, come si diceva una volta, i compagni che fanno la teoria, la prassi, e organizzano la rivoluzione. Cioè non è che Lenin arrivò dalla Svizzera in Unione Sovietica, no? Aveva lavorato prima facendo parlare anche il ventre dei del proletariato russo, e poi gli mise il fucile in mano e fecero l'assalto al Palazzo d'Inverno. Però cominciò anche con modalità molto riformistiche, non solo subito il fucile in mano, no? Vabbè, cioè, insomma, al di là dell'esempio, cioè, dell'esempio, il documento di Lenin, Ettore, che tra l'altro, insomma, mi permetto di dire, cercava sempre un minimo collante tra il problema del proletario, il piccolo problema del proletario, con l'analisi macroeconomica e l'imperialismo, insomma. È un sì, legame che comunque nelle sue, una frase nella sua analisi, che cito sempre di Lenin, che mi piace, era che i veri problemi partano da, cioè la rivoluzione partano sempre dai problemi dell'individuo, del singolo. Dice, e la capacità di un dirigente è quello di farlo diventare collettivo. E questo, anche se è così, cerca di parlare del singolo per farlo diventare collettivo, cioè, capito? Cioè, non è che voglio definirmi chissà come cosa, ma è un granello nella discussione per di facciamo, perché sentire. No, infatti è questo il fatto, è proprio questo. Spese militari. E sembra una cosa più di classe, no? Ma abbattere i super redditi, i sproporzionati, o un rincoglionito a 90 anni che gli danno a bellezza di 50.000 euro al mese di pensioni, abbattere questo non sarà rivoluzionario, ma il proletario di strada del bar potrebbe capire, capito? Per potersi aggregare e incazzarsi. Eh sì, nel senso che a prescindere appunto da alcune cose, anche dalla querelle su chi ha scippato i dati di chi, insomma, mi sembra che alcune obiezioni dell'ascoltatore di Pino, insomma, un po' colgano nel segno. D'altro canto, già in apertura comunque noi abbiamo comunque fatto la nostra premessa. È chiaro che forse l'impostazione, ad esempio, se l'impostazione che ne dai tu è quella relativa alla possibilità di costruire battaglia politica o una campagna che poi finirebbe per l'essere né più né meno una delle tante campagne d'opinione, insomma, che circolano e che purtroppo ormai quasi d'abitudine gli stessi movimenti sociali in un modo o nell'altro fanno proprie, senza che queste siano accompagnate in realtà poi da magari un'internità dentro i soggetti sociali, alcune contraddizioni reali. È chiaro che detta così, insomma, il senso un po' sfugge. al contrario potrebbe acquisirlo il senso se ci si sofferma, ci si limita a dire che attraverso un'analisi di questo tipo si può chiaramente recuperare una parte di notizie e informazioni che servono a capire quello che succede, servono a capire come è organizzata in generale la stessa previdenza pubblica e sociale, e d'altra parte, come dicevi anche tu, insomma, può essere un ragionamento molto utile per capire dove anche da un punto di vista di agitazione, insomma, si può recuperare, dove si può andare a pescare, evidentemente quando si fanno rivendicazioni di carattere specifico su questa o quella vertenza, insomma, nel senso che si dice spesso che i soldi non ci stanno, in realtà un recupero per finalizzato a il recupero di risorse per servizi sociali, tu hai citato la scuola, ma di esempi se ne potrebbero fare altri, in realtà ci sarebbero, visto che dai calcoli viene fuori che almeno 170 miliardi di euro all'anno vanno via, insomma, per coprire le pensioni d'oro, i redditi d'oro e i cumuli, insomma, da reddito e da pensione di chi ci governa e di chi, insomma, gestisce anche le grandi imprese. Diciamo anche che poi si tratta comunque di supercapitalisti anche, non si tratta soltanto di manager pubblici e di uomini e personalità politiche, si tratta anche dei grandi manager delle aziende nei confronti delle quali, insomma, noi cerchiamo anche di capire quali sono gli interessi dominanti, come si muovono a livello planetario. Parliamo ad esempio dell'ENI, c'è Scaroni che è uno di quelli, insomma, che tu citi, mi sembra, insomma, nel documento, uno di quelli super privilegiati da tutti i punti di vista, così come ci sono anche altri nomi, pensione pure, c'è Luca di Montezemolo, altro, insomma, top manager di classe A, che tra l'altro, insomma, no, c'è uno che faceva il macellaro vero e proprio, 22.000 euro di pensione, è stato inquisito sti giorni perché ancora continua a trafficare, a prendere tangenti, sarebbe Guazzalocca, no? Cioè, persino a quel livello, insomma, voglio dire, possiamo fare sacrifici per mantenere questi? E certo, forse sembra che parli al ventre, però voglio dire, a gente che non arriva alla fine della settimana, no, alla fine del mese, di quelli che campano giorno per giorno, e forse un ragionamento di questi le potresti portare appresso a te e fa, ecco perché dico un'utopia, che la ribellione può renderle più o meno praticabile, poi vediamo chi la gestirà dopo, no? Certo, non lo delega né a Berlusconi e né a Bersani, questo è. Io sono un cassa integrato d'Italia e ho notato che in effetti, nonostante situazioni, cioè chi si è trovato a vivere 8.000 persone, insomma, espulse dal criminale aziendale, che hanno perso il lavoro e che quindi avevano molti motivi per essere incassati, no? Che però comunque quando si tratta di tradurre la lotta in per esempio, se purtroppo si tratta di parlare di comunismo, cosa che io ovviamente condivido pieno, li vedi sempre un po' demotivati, cioè che non riescono a trovare a tradurre materialmente, concretamente in una lotta che possa portare a qualcosa di concreto. A me sembra che questo sia uno strumento per dare delle indicazioni che possono anche risultare valide per coinvolgere più persone, visto che ultimamente c'è un po' una crisi di coinvolgimento delle persone, per quanto gli studenti hanno comunque portato qualcosa, insomma. Va bene. Tu hai detto lavori in Alitalia, sei in cassa integrazione, per cui sei esattamente, diciamo, il soggetto speculare ai pensionati d'oro di cui stiamo parlando. perché per te insomma gli effetti della crisi sono stati evidentissimi, tant'è che ci stai rimettendo in reddito e immagino anche in salute, perché sicuramente nella precarietà del dover ritrovare a 35 anni una collocazione, ben sapendo che nessuno, poi non so se magari lo sapete, però in Alitalia stanno continuando a mandare in cassa integrazione, hanno aperto altri 700, insomma per il momento la stanno facendo volontaria, su base volontaria, quindi sono in contatto con i miei colleghi che per il momento se la passano male, nonostante poi le promesse da furfanti dei vari CGL, CGIL, UIL che avevano firmato l'accordo, si sono ritrovati con stipendi tagliati di 150-200 euro, stipendi da 1.400-1.500 tagliati da 150-200 euro, più espulsioni dal perimetro aziendale di 8-9.000 persone, i precari che sono stati i primi proprio a essere mandati via senza neanche la cassa integrazione, quindi insomma questo macello sociale che è stato perpetrato, in teoria purtroppo io mi sarei aspettato lì per lì che non so, che andavamo a spaccare tutto, invece alla fine le persone non si trovano un po' perse, non sanno che come procedere, e quindi questo mi sembra un po' uno strumento che può essere utile, ecco, va bene. Okay. Dire alla gente che c'è la possibilità di incazzarsi con obiettivo ben preciso, cioè proprio questo ho voluto far notare io, per far incazzare i cassintegrati, i disoccupati, i studenti, i giovani e i pensionati, no? Perché poi abbiamo tutta una serie di pensionati che stanno sotto i 500 euro, vedere quelle altre cose, che allora a questo punto dico vediamo di fargli capire perché la sua pensione è bassa, il suo stipendio è precario, lui sta in cassa integrazione e incazzasse su un obiettivo che non è solamente piove governo ladro, ma governo ladro senza piove, no? Basta. Esatto, poi io punterei molto su sto fatto del cumulo che non vale per appunto per chi magari è invalido, per chi insomma è un poveraccio, invece vale per giornalisti, cioè a me sembra, per esempio non lo sapevo che funzionasse così insomma il nostro sistema previdenziale. Bene, ciao, grazie. Ciao. Insomma, quindi un minimo di riscontro già lo abbiamo ottenuto presentando il documento così in radio. Io vorrei però, Ettore, giunti a questo punto e andando anche verso la conclusione, spendere due parole anche su chi pensione probabilmente non ne prenderà mai. Insomma, sono passati pochi mesi dalle dichiarazioni stupefacenti del responsabile INPS, che candidamente ha ammesso che i motivi per i quali i parasubordinati non potevano accedere al programma di simulazione per conteggiare la loro pensione futura è insomma il fatto che se ciò fosse possibile potrebbe scatenare una rivolta sociale, e queste sono parole che certamente hanno anche lasciato scalpore, ma poi a conti fatti in realtà insomma sebbene ci si stupisca di tutto questo non si arriva a concretizzare insomma la nostra rabbia, il nostro disappunto, il nostro disagio. Tra l'altro insomma, a parte il fatto che ci sono sempre lor signori di ambedue gli schieramenti che sono sempre pronti a confezionare la nuova proposta di riforma pensionistica o di controriforma pensionistica, ci sono fondazioni che sono sempre lì in agguato e che non fanno altro che studiare insomma come arrivare per l'appunto a manovre di questo tipo. La stessa proposta fatta recentemente proprio alla vigilia del corteo sulla precarietà di Ichino, Montezemolo e Rossi prelude a un innalzamento dell'età pensionabile, un anno di lavoro in più per tutti per arrivare alla cosiddetta flexicurity che costoro propongono, insomma, cioè proposte sempre e comunque insomma deleterie per chi fa i conti con la crisi e con il proprio magro stipendio quando ce l'ha, insomma. Quindi magari ecco qualche parola direi che si può spendere anche rispetto al fatto che, e da questo punto di vista c'è anche un po' da così ragionare sui motivi per i quali tu dici tanti giovani in realtà quando hanno visto questa proposta un po' insomma non, ne hanno tenuto poco conto. E c'è questo problema, c'è il problema di chi effettivamente il problema della pensione proprio non se lo pone, perché sa già insomma che quel poco di lavoro che fa in realtà non gli sta portando niente in termini di contributi pensionistici. Mi permetto poi di fare un altro inciso dal punto di vista generale. Mi è piaciuta questa cosa dell'ascoltatore che ha legato insomma il comunismo, cioè la prospettiva verso un orizzonte davvero libero insomma da anche la schiavitù del lavoro salariato, a invece temi più abbordabili, più accessibili come quelli di cui stiamo parlando. Allora caro Luciano, intanto andiamo in un tema che qui dovremmo fare un'altra trasmissione, quando vuoi vengo più documentato, perché sulle pensioni qualcosa ne so, e non è con una battuta che lo posso dire, però ai giovani gli posso dire che non avranno la pensione, ma i contributi le verseranno uguale, e le verseranno nella stessa misura di chi fortunatamente c'è arrivato alla pensione oggi. Non è che versa meno o non prenderà la pensione perché è flessibile, fa meno monte ore e via dicendo, perché se quando si fa il monte contributivo alla fine l'ammontare economico non è meno di quello che ha versato un lavoratore normale che oggi riesce ad andare in pensione col sistema retributivo. Perché poi non riguarda solo i giovani, a parte che quello che ha detto alla fine, un anno in più di chino, già l'hanno fatta a giugno scorso. L'ha fatto Tremonti alla Chitichella senza nessuna incazzatura di nessuno, neanche la Fiommo si è incazzata, non dico la CGIL, senza colpo ferire ha alzato dei 5 anni l'età pensionabile per le donne, da 60 a 65 anni. Senza colpo ferire una persona deve raggiungere 60 anni per poter avere il diritto di fare domanda di pensione, e dopo che fa domanda di pensione deve aspettare 12 mesi perché hanno chiuso tutte le finestre. Hanno inserito anche che dal 2015 parte un coefficiente di calcolo ulteriormente in cui viene calcolata l'aspettativa di vita: o lavori un anno e mezzo in più o pigli delle somme in meno con i stessi periodi contributivi, senza considerare che dal 2015 non ci sono più pensioni date in base all'ultima retribuzione, tranne per quelli che avevamo citato nel libricino qua, no? Perché sono fuori da tutte queste riforme, non vengono coinvolti da queste riforme, vengono protetti da queste riforme, e hanno la scala mobile incorporata perché tutti gli anni gli aumenta la loro pensione in base all'inflazione reale. E aumentare del 2% una pensione bassa di questa gente qua di 10.000 euro non è una cosa di poco conto, non è la pensione di 500 euro che gli dai il 2,5%, no? Gli ha dato un cazzo, manca il caffè. A questi sono soldi, equivale lo stipendio di quel cassa integrato che ha telefonato prima. A parte tutto questo, ecco perché dico i giovani, quando dicono aridateci al futuro, non è un posto di lavoro dove lo devono schiavizzare per tutta la vita che deve rivendicare. Il futuro sta qui. Il futuro sta pure a rivendicare un reddito legittimo, perché avere un reddito dentro una società di questo tipo non vuol dire che devono fatte sfruttare a tutti i costi da sti padroni gargarozzoni, no? A me mi deve garantire un reddito minimo garantito, e le risorse per finanziare tutto questo ci sono, basta razionalizzarle, basta ridistribuirle. La ridistribuzione si fa coi tetti, si fa coi divieti di cumulo e si fa pure con le tasse, ma vere, in cui uno, non ho capito, oggi le tasse dicono che non aumentano, ma aumentano sempre, ma aumentano le tasse indirette che fanno diventare povero a te che già lo sei, e a quello ricco manco lo vale. Ma tu ti rendi conto che quando metto la benzina la pago sia io che Montezemolo allo stesso prezzo, però dalla benzina c'è stato l'80% sono tasse. Se aumentano l'IVA la pago sia io che Montezemolo, e Montezemolo si serve pure perché qualche evasione fiscale sull'IVA lui sa, gestisce pure. Allora questo è che i giovani non hanno la prospettiva, e non solo i giovani, quelle leve nuove che ancora devono entrare nel mondo del lavoro, ma tutti quelli che sono cascati dal 95 in poi non pieranno pensione. Perciò uno che nel 95 cominciava a lavorare, o voglia ma giovane, ci avrà 40 anni. Quello è disperato come quello che ancora deve cominciare a lavorare. E questi pensano ancora ulteriormente di fare altri tagli, altri risparmi. Ti ho detto, dovevamo fare una trasmissione apposta, perché dobbiamo pure spiegare che cazzo ha significato i fondi pensioni integrativi. Cioè sarebbe la rapina di quel cumulo del TFR che si sono cuccati, e so quelli che poi Tremonti dice è la speculazione che crea la crisi. Ma la speculazione non è una nuvola che si trasforma in grandine all'improvviso, è qualcosa che questi provocano giornalmente con le loro scelte, e noi le dobbiamo lasciare liberamente senza dargli fastidio. Noi ci dovremmo trovare, quando io nella mia trasmissione la domenica ripeto in continuazione i forconi in maniera simbolica, no? E se noi non alziamo i forconi proprio su ste cose, purtroppo queste andranno avanti agliosa, ci hanno tutto in mano loro, non ti fanno parlare di sti problemi perché poi ti fanno parlare di Ruti, ti fanno parlare di altre stronzate, si perdono nella cosa. Mo se sono inventati quest'anno il 150esimo e per tutto ci ammorbano con questo nazionalismo becero, con un presidente della Repubblica che dovrebbe essere garante della Costituzione, che dice bisogna andare a bombardare, bisogna fare la guerra, e se ne fotta dell'articolo 11 della Costituzione, no? Ci abbiamo questo, e noi magari fra di noi ci dividiamo tra il precario oppure il disoccupato, oppure, e ci facciamo delle lotte. L'Italia ha perso, diciamo, nell'isolamento, nella cosa che non ha avuto, perché non ci ha avuto attorno il consenso delle altre realtà. Quelli che stanno chiusi all'isola d'Asinara da un anno e mezzo è perché sono chiusi da solo per la loro vertenza, come se quella vertenza riguarda solo a quelli disgraziati, ma riguarda tutti noi. Se noi non capiamo che siamo tutti dentro al carcere dell'Asinara e tutti vogliamo evadere da quel carcere in qualche modo, ecco, lo spirito è questo. Io mi auguro che questo documento, che io a mie spese, a mia fatica lo stampo in continuazione e come un tormentone ovunque mi trovo, pure se mi capita di andare a un funerale davanti a una chiesa lo distribuisco, no? Me lo porto sempre appresso. Invito pure gli ascoltatori, che chi lo vuole vedere sul sito dei COB, non per fare la pubblicità dei COB, assa Impedap, c'è pubblicato, lo possono scaricare, leggerlo, diffonderlo, farlo vedere dove io non ci arrivo, perché non c'ho la televisione, c'ho sta radio, e in base a sta radio sono 4 anni che faccio sto tormentone, e oggi finalmente è capitata l'occasione di approfondirlo più dettagliatamente, di andare avanti in questo modo. Dopodiché sulle pensioni, sul dettaglio, se vogliamo parlare che cosa prospetta, quali sono le riforme, come vengono calcolati le pensioni del futuro, sono pronto, con documenti in mano faccio vedere che i contributi verranno pagati ma non verranno restituiti. I giovani, questo c'hanno di fregatura, che pagano una montagna di contributi, e quella montagna di contributi non renderanno in nessun modo nessuna cosa di pensione. Saranno tutti pensionati sociali, tutti integrati al minimo a 380 euro al mese, e probabilmente, e vedremo questa generazione da adesso, molti barboni per strada o a lavorare, come succede, lo vediamo con i morti sul lavoro, quando sentiamo è caduto il muratore a 71 anni mentre ci stava il tetto, che cazzo ci sta a fare una persona a 71 anni su un tetto? Ancora se deve arrampicare sulle imbarcature? O il contadino che rimane sotto il trattore all'azienda agricola, non al proprio terreno, perché sono costretti a lavorare fino a dopo la morte? E se non ci incazziamo adesso, è un'utopia, ma cominciamo da questa cosa che non è la rivoluzione, però cominciamo a utilizzare pure noi un po' di linguaggio più diretto, che ci dobbiamo far capire di chi ha disperazione. Come fai a spiegare al pensionato sociale perché la pensione sua è a 350 euro e quell'altra è a 40.000 euro? Tu lo puoi spiegare con termini più facili, più comprensivi, e gli puoi dire: incazzati assieme a me, e gli dai una prospettiva di lotta e non l'evanescente prospettiva di lotte mirate per tutto sto ceto politico al consenso elettorale. Vota Antonio, vota Antonio. Poi vanno là, si inseriscono, diventano casta, diventano privilegi, perché a chiusura, una battuta, non ti crede che qui non ci sono, e io lo faccio sto nome, ma non per motivi di scandalo, per rendersi conto, c'è Bertinotti che accumula 3 pensioni, ha capito? Quello è il compagno Bertinotti, no? Accumula 3 pensioni, eppure parla di lavoro, di lavoratore, non ha mai lavorato in vita sua. Gli dovrebbero qualcuno sgullare, è quello che ha delegittimato poi il conflitto vero e proprio, perché intanto si è fatti i cazzi suoi, ne potrei fare pure altri, ha capito? Ecco.